Siamo al telefono con l'avvocato Francesco Romeo, che salutiamo per la sua disponibilità anche quest'oggi. Insomma, buongiorno a voi. Buongiorno. È un processo quello che si riapre domani 3 ottobre sui fatti del G8, in particolare sulle 5 compagni, insomma, che sono stati rispediti dalla Cassazione in appello nuovamente con la sentenza di luglio scorso, dell'anno scorso. Intanto illustriamo bene i motivi di questa scelta, cioè li ricapitoliamo. Ci tenevo a dire, insomma, che non si fa fatica a trovare tracce della riapertura di questo processo un po' dappertutto, e con noi non ce ne vogliamo affatto scordare, e quindi ne riparliamo, perché insomma è importante capire anche che sorte accadrà a queste 5 persone. Sì. Dunque, domani a Genova si dovrà discutere se per queste 5 persone che nel 2001 erano a Genova, sono state arrestate e condannate in via definitiva anche loro, insieme agli altri 5 per il reato di devastazione. Dicevamo, si dovrà discutere se queste 5 persone possono avere la pena ridotta. Infatti la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che non aveva concesso loro l'attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. Questa è la dicitura tecnica, diciamo, della norma del codice penale, della quale noi delle difese chiediamo l'applicazione. Per capire bene, per renderla semplice, la Corte d'Appello dovrà valutare se questi 5 imputati possano avere una riduzione consistente della pena alla quale sono state condannate, per essere, come dire, state coinvolte nell'attività di reato, non essendone gli organizzatori. Insomma, gente che passava di là e che magari si è messa in mezzo, ecco. Di questo stiamo discutendo. Quindi il punto del processo è se queste persone hanno diritto ad avere questa riduzione di pena. Se noi vogliamo andare a spingere lo sguardo un po' più in là, possiamo anche dire che questa alla fine sarebbe, è anche la prova che in realtà questi tutti e 10, questi 5 poi lo vedremo domani, tutti e 10 i condannati di quel processo sono stati in realtà utilizzati come capri espiatori, insomma, rispetto a quello che è accaduto a Genova, un po' per controbilanciare, diciamo, gli altri processi che sono stati celebrati nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Beh sì, peraltro un controbilanciamento, se proprio vogliamo metterla su questo piano, insomma, assolutamente asimmetrico. Solo un occhio miope poteva bilanciare in quel modo, insomma, anche perché dall'altra parte ci sono praticamente solo prescrizioni, a parte appunto la questione. Prescrizioni, pene molto basse, per reati molto lievi. Cioè, voglio dire, non gravi come sarebbe stato necessario che fossero, non essendoci nel nostro ordinamento il delitto di tortura. Dall'altra parte pene altissime per dei danneggiamenti a immobili, vetrine, insomma, a cose. Chi si è accanito sulle persone ha avuto delle pene tutto sommato molto contenute. Molti non sono stati identificati, anche questa è una notizia che bisogna dare. 222 procedimenti per violenze commesse in strada da appartenenti alle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti sono stati archiviati perché non è stato possibile identificare gli autori. Sì. E quindi si sono prescritti. Forse anche questa è una notizia che va data e che è poco conosciuta. Assolutamente, così come rispetto a coloro i quali si sono rivolti alla Corte di Strasburgo europea, insomma, solo una trentina, mi sembra, su 154 che sarebbero i detenuti nel lager di Bolzaneto, hanno ottenuto fino adesso un risarcimento congruo. E questo attiene, diciamo, al comportamento dello Stato. È un comportamento dello Stato che la dice degli apparati statali, delle istituzioni, che un po' diciamo la dice lunga di fronte allo scempio dei diritti, delle persone, dei corpi che è stato consumato in quelle giornate di Genova. Uno Stato che, come dire, tira la corda, fa di tutto per ritardare il pagamento del danno a cui è stato condannato, certo non dà un'immagine chiara, limpida. Assolutamente. E mentre da questa parte, insomma, si cerca in ogni modo di rendere efficaci questi colpi di spugna, dall'altra parte invece si attende ancora di capire che pene avranno da scontare i 5 imputati che rimangono. Peraltro però il G8 non finisce, diciamo, di produrre continui strascichi. Di queste ore la notizia, appunto, della condanna di questo poliziotto che già si era reso abbastanza noto e famoso per violenze particolarmente efferate a Bolzaneto. Stiamo parlando di Massimo Luigi Picozzi. Chiamiamole come vanno chiamate, torture. Torture, esatto. Si è ripetuto il signore, ovviamente, ora il Viminale dovrà pagare, insomma, un risarcimento alle donne che sono state violentate da questo signore, anche perché, insomma, il Viminale è, diciamo, imputato del fatto che è rimasto in servizio questo. Sì, questo episodio, questo ultimo episodio ci rimanda a quanto abbiamo detto prima. Uno Stato che non si assume la responsabilità che dovrebbe invece assumersi, non solo non ritardando il pagamento dei risarcimenti, dilungandolo nel tempo, creando così evidentemente dei problemi a chi quei danni li ha subiti, ma dall'altro mantenendo in servizio persone che si sono dimostrate indegne di ricoprire quei ruoli, perché insomma la polizia non serve a distruggere le persone, a umiliarle, a offendere. La polizia dovrebbe servire in uno Stato democratico magari a dare protezione, non a seminare il terrore. E quindi anche l'aver mantenuto questa condotta, che non riguarda solo questo soggetto ma tutti quelli che sono stati indagati e poi imputati nelle vicende genovesi, tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, questa condotta di mantenere comunque in servizio tutti fino all'ultimo è anche essa una condotta indicativa di uno Stato che invece di stare dalla parte dei suoi cittadini si mette a difesa ostinata e ottusa dei propri dipendenti, in contrasto con quanto stabiliscono peraltro le normative europee, che oltre a prevedere e a chiedere a tutti gli Stati europei di introdurre il reato di tortura, cosa a cui l'Italia ancora non ha ottemperato, danno l'indicazione pure di sospendere immediatamente dal servizio le persone appartenenti alle forze dell'ordine che si trovano implicate in fatti di questo genere, circostanza che nel caso dei processi genovesi non è accaduta, ovviamente. Senti Francesco, che tipo di tempi si prevedono con il processo che si apre domani? Beh, io penso che già domani potrebbe esserci la sentenza. Ah, ecco. E insomma poi si vedrà, se la sentenza non dovrà essere impugnata, non verrà impugnata da nessuno in Cassazione, e l'atto giuridico e l'episodio giuridico conclusivo delle vicende genovesi. Eh sì, c'è ancora forse Colucci che rimane al centro di un procedimento, sì, no? Ma Colucci è un procedimento collaterale, sto parlando dei, diciamo, delle vicende che hanno riguardato la piazza, sì. E i manifestanti. D'accordo, allora ci risentiremo sicuramente nelle prossime ore per capire un po' com'è andata domani, va bene? Va bene, buona ciao. Giornata a voi. Ciao, grazie.